Cosa hai detto? Ma chi? Da zio. Ma quanta ne hai messa dentro? Da la cifra. Sta tutto fatto. Ha paura. Ha panico. Minchia paura. Panico pa panico pa panico paura. Panico pa panico pa panico paura. Scemo pagliaccio.